Così nacque tra Cosimo e il cavaliere avvocato un'intesa, una collaborazione che si poteva pur chiamare una specie d'amicizia. Se amicizia non sembrasse termine eccessivo riferito a due persone così poco socievoli. Anche sul terreno dell'idraulica, mio fratello ed Enea Silvio finirono per incontrarsi. Ciò può parer strano perché chi sta sugli alberi difficilmente ha a che fare con pozzi e canali. Ma v'ho detto di quel sistema di fontana pensile che Cosimo aveva escogitato, con una corteccia di pioppo che portava l'acqua ad una cascata fin tra i rami d'una quercia. Ora, al cavaliere avvocato, pur così distratto, nulla sfuggiva che si muovesse nelle vene d'acqua di tutta la campagna. Da sopra la cascata, nascosto dietro un ligustro, spiò Cosimo tirar fuori la conduttura di tra le fronde della quercia, dove la riponeva quando non gli serviva, per quell'usanza dei selvatici, subito divenuto anche sua, di nascondere tutto, appoggiarla a una forcella della quercia e dall'altra parte a certe pietre dello strapiombo, e bere. A quella vista, chissà cosa mai frullò in capo al cavaliere. Fu preso da uno dei suoi rari momenti d'euforia. Sbucò fuori dal ligustro, batté le mani, fece due o tre balzi che pareva saltasse alla corda, spruzzò dell'acqua, per poco non imboccò la cascata e non volò giù dal precipizio. E cominciò a spiegare al ragazzo l'idea che aveva avuta. L'idea era confusa e la spiegazione confusissima. Il cavaliere avvocato d'ordinario parlava in dialetto, per modestia più ancora che per ignoranza della lingua, ma in questi improvvisi momenti di eccitazione dal dialetto passava direttamente al turco, senza accorgersene, e non si capiva più niente. A farla breve, gli era venuta l'idea di un acquedotto pensile, con una conduttura sostenuta appunto dai rami degli alberi, che avrebbe permesso di raggiungere il versante opposto della valle, gerbido, ed irrigarlo. E il perfezionamento che Cosimo, subito secondando il suo progetto, gli suggerì d'usare in certi punti dei tronchi di conduttura bucherellati per far piovere sui semenzai, lo mandò in visibilio addirittura. Corse a rintanarsi nel suo studio, a riempire fogli e fogli di progetti. Anche Cosimo ci si impegnò, perché ogni cosa che si potesse fare sugli alberi gli piaceva e gli pareva venisse a dare una nuova importanza e autorità alla sua posizione lassù. E in Enea Silvio Carrega gli sembrò d'aver trovato un insospettato compagno. Si dava un appuntamento su certi alberi bassi. Il cavaliere avvocato ci saliva con la scala a triangolo, le braccia ingombre di rotoli di disegni, e discutevano per ore gli sviluppi sempre più complicati di quell'acquedotto. Ma non si passò mai alla fase pratica. Enea Silvio si stancò, diradò i suoi colloqui con Cosimo, non completò mai i disegni. Dopo una settimana doveva essersene già dimenticato. Cosimo non rimpianse la cosa. S'era presto accorto che per la sua vita diventava una fastidiosa complicazione e nient'altro. Era chiaro che nel campo dell'idraulica il nostro zio naturale avrebbe potuto fare molto di più. La passione ce l'aveva, il particolare ingegno necessario a quel ramo di studio non gli mancava, però non sapeva realizzare. Si perdeva finché ogni proposito non finiva in niente, come acqua mal incanalata che dopo aver girato per un po' venisse risucchiata da un terreno poroso. La ragione forse era questa, che mentre all'apicoltura poteva dedicarsi per conto suo, quasi in segreto, senza avere a che fare con nessuno, fiorendo ogni tanto in un regalo di miele e cera che nessuno gli aveva chiesto, queste opere di canalizzazione, invece, le doveva fare tenendo conto degli interessi di questo e di quello, subendo i pareri e gli ordini del barone o di chiunque altro gli commissionava il lavoro. Timido e irrisoluto com'era, non s'opponeva mai alla volontà altrui, ma presto si disamorava del lavoro e lo lasciava perdere. Lo si poteva vedere a tutte le ore, in mezzo a un campo, con uomini armati di pale e zappe, lui con un metro a canna e il foglio arrotolato d'una mappa, dar ordini per scavare un canale e misurare il terreno coi suoi passi, che essendo cortissimi doveva allungare in maniera esagerata. Faceva incominciare a scavare in quel posto, poi in un altro, poi interrompere e si rimetteva a prendere misure. Veniva sera e così si sospendeva. Era difficile che all'indomani decidesse di riprendere il lavoro in quel punto. Non si faceva più trovare per una settimana. D'aspirazioni, impulsi, desideri era fatta la sua passione per l'idraulica. Era un ricordo che egli aveva in cuore. Le bellissime, ben irrigate terre del sultano, orti e giardini in cui egli doveva essere stato felice, il solo tempo veramente felice della sua vita. E a quei giardini di Barberia o Turchia andava di continuo, comparando le campagne d'Ombrosa, ed era spinto a correggerle, a cercare di identificarle col suo ricordo. E la sua arte, essendo l'idraulica, in essa concentrava questo desiderio di mutamento e di continuo si scontrava con una realtà diversa e ne restava deluso. Praticava anche la rabdomanzia, non visto, perché erano ancora i tempi in cui quelle strane arti potevano attirare il pregiudizio di stregoneria. Una volta Cosimo lo scoperse in un prato che faceva piroette protendendo una verga forcuta. Doveva essere anche quello un tentativo di ripetere qualcosa visto fare ad altri e di cui egli non aveva alcuna pratica, perché non ne venne fuori niente. A Cosimo, comprendere il carattere di Nea Silvio Carrega giovò in questo, che capì molte cose sullo star soli, che poi nella vita gli servirono. Direi che si portò sempre dietro l'immagine stranita del cavaliere avvocato, ad avvertimento di un modo come può diventare l'uomo che separa la sua sorte da quella degli altri, e riuscì a non somigliargli mai. Alle volte Cosimo era svegliato nella notte da grida di «Aiuto! I briganti! Rincorreteli!» Per gli alberi si dirigeva svelto al luogo donde quelle grida provenivano. Era magari un casolare di piccoli proprietari e una famigliola mezzo spogliata era lì fuori con le mani sul capo. Ai noi è venuto Gian dei Brughi e ci ha portato via tutto il ricavato del raccolto!» S'affollava gente. «Gian dei Brughi? Era lui, l'avete visto?» Era lui, era lui! Aveva una maschera in faccia, una pistola lunga così, e gli venivano dietro altri due mascherati e lui li comandava. Era Gian dei Brughi! E dov'è? Dov'è andato? Eh sì, bravo, piglialo Gian dei Brughi, chissà dov'è a quest'ora. Oppure chi gridava era un viandante lasciato in mezzo alla strada, derubato di tutto, cavallo, borsa, mantello e bagaglio. Aiuto! Alla rapina, Gian dei Brughi! Com'è andata? Diteci! È saltato di là, nero, barbuto, a schioppo spianato, per poco non sono morto. Presto, inseguiamolo, da che parte è scappato? Di qua! No, no, no, forse di là, correva come il vento! Cosimo si era messo in testa di vedere Gian dei Brughi. Percorreva il bosco in lungo e largo dietro alle lepri e agli uccelli, incitando il bassotto. Cerca, cerca, ottimo Massimo! Ma quello che lui avrebbe voluto stanare era il bandito in persona, e non per fargli o dirgli nulla, solo per vedere in faccia una persona tanto nominata. Invece mai gli era riuscito di incontrarlo, neanche stando in giro magari tutta una notte. Vorrà dire che stanotte non è uscito, si diceva Cosimo. Invece al mattino, di qua o di là della vallata, c'era un crocchio di gente alla soglia d'una casa o a una svolta di strada che commentava la nuova rapina. Cosimo accorreva e stava orecchi spalancate a sentire quelle storie. «Ma tu che stai sempre su per gli alberi del bosco», gli disse una volta qualcuno, «non l'hai mai visto Gian dei Brughi?» Cosimo si vergognò molto. «Ma, mi par di no». «E come vuoi che l'abbia visto?» interloquì un altro. «Gian dei Brughi ha dei nascondigli che nessuno può trovare e cammina per strade che nessuno conosce. Con la taglia che ha sulla testa, chi l'acchiappa può star bene tutta la vita. Già, ma quelli che sanno dov'è hanno conti da regolare con la giustizia quasi quanto lui e se si fanno avanti finiscono dritti dritti sulla forca anche loro. Gian dei Brughi! Gian dei Brughi! Ma sarà proprio sempre lui a fare questi delitti!» Va là, che ha tante imputazioni che seppure gli riuscisse di scolparsi di 10 rapine, nel frattempo l'avrebbero già impiccato per l'11ª. Ha fatto il brigante per tutti i boschi della costa. Ha ucciso anche un suo capobanda in gioventù. È stato bandito pure dai banditi. Per questo è venuto a rifugiarsi nel nostro territorio. È che noi siamo troppo brava gente. Cosimo ogni notizia nuova andava a commentarla coi calderai. Tra la gente accampata nel bosco c'era a quei tempi tutta una genia di loschi ambulanti. Calderai, impagliatori di seggiole, stracciai, gente che gira per le case e al mattino studia il furto che farà la sera. Nel bosco, più che il laboratorio, avevano il rifugio segreto, il ripostiglio della rifurtiva. «Sapete, stanotte Gian dei Brughi ha saltato una carrozza». «Ah sì? Ma tutto può darsi». «Ha fermato i cavalli al galoppo prendendoli per il morso». «Beh, o non era lui, o invece di cavalli erano grilli». «Cosa dite? Non credete che fosse Gian dei Brughi?» «Ma sì, sì, che idee gli vai a mettere in testa, tu? Era Gian dei Brughi, certo!» «E di che cosa non è capace Gian dei Brughi?» A sentir parlare di Gian dei Brughi in questo modo, Cosimo non si raccapezzava più. Si spostava nel bosco e andava a sentire a un altro accampamento di girovaghi. «Ditemi, secondo voi, quello della carrozza di stanotte era un colpo di Gian dei Brughi, no?» «Tutti i colpi sono di Gian dei Brughi quando riescono, non lo sai?» «Perché quando riescono?» «Perché quando non riescono, vuol dire che sono di Gian dei Brughi veramente!» «Quello schiappino!» Cosimo non capiva più niente. «Gian dei Brughi è uno schiappino!» Gli altri allora s'affrettavano a cambiar tono. Ma no, è un brigante che fa paura a tutti!» «L'avete visto voi?» «Noi! E chi l'ha mai visto?» «Ma siete sicuri che ci sia?» «Oh, bella, certo che c'è! E se anche non ci fosse?» «E se non ci fosse?» «Sarebbe tale e quale!» «Ma tutti dicono...» «Certo, così si deve dire. È Gian dei Brughi che ruba e ammazza dappertutto, quel terribile brigante. Vorremmo vedere che qualcuno ne dubitasse». «Ehi tu, ragazzo, avresti mica il coraggio di metterlo in dubbio?» Insomma, Cosimo aveva capito che la paura di Gianni Brughi, che c'era giù a valle, più si saliva verso il bosco, più si tramutava in un atteggiamento dubbioso e spesso apertamente derisorio. La curiosità di incontrarlo gli passò, perché capì che di Gianni Brughi, alla gente più esperta, non importava niente. E fu proprio allora che gli successe di incontrarlo. Cosimo era su di un noce un pomeriggio e leggeva. Gli era presa da poco la nostalgia di qualche libro. Stare tutto il giorno col fucile spianato ad aspettare se arriva un fringuello, alla lunga, annoia. Dunque leggeva il Gil Blas di Lesage, tenendo con una mano il libro e con l'altra il fucile. Ottimo Massimo, cui non piaceva che il padrone leggesse, girava intorno cercando pretesti per distrarlo, abbaiando per esempio una farfalla, per vedere se gli riusciva a fargli puntare il fucile. Ed ecco, giù dalla montagna per il sentiero, veniva correndo e ansando un uomo barbuto e malmesso, disarmato, e dietro aveva due sbirri a sciabole sguainate che gridavano «Fermatelo! È Gianni Brughi! L'abbiamo stanato, finalmente!» Ora il brigante aveva preso un po' di distacco dagli sbirri, ma se continuava a muoversi impacciato come chi ha paura di sbagliare strada o di cadere in qualche trappola, li avrebbe riavuti presto alle calcagna. Il noce di Cosimo non offriva appiglio a chi volesse arrampicarcisi. Ma egli aveva lì sul ramo una fune di quelle che si portava sempre dietro per superare i passi difficili. Ne buttò un capo a terra e legò l'altro al ramo. Il brigante si vide cadere quella corda quasi sul naso. Si torse le mani un momento nell'incertezza, poi s'attaccò alla corda e s'arrampicò rapidissimo, rivelandosi uno di quegli incerti impulsivi o impulsivi incerti che sembra sempre non sappiano cogliere il momento giusto e invece l'azzeccano ogni volta. Arrivarono gli sbirri. La corda era già stata tirata su e Gianni Brughi era accanto a Cosimo tra le fronde del noce. C'era un bivio. Gli sbirri presero uno di qua e uno di là, poi si ritrovarono e non sapevano più dove andare. Ed ecco che si imbatterono in Ottimo Massimo che scodinzolava nei paraggi. «Ehi!» disse uno degli sbirri all'altro. «Questo non è il cane del figlio del barone, quello che sta sulle piante. Se il ragazzo è qua intorno potrà dirci qualcosa». «Sono quassù!» gridò Cosimo. Ma lo gridò non dal noce dove era prima e dove era nascosto il brigante. Si era rapidamente spostato su un castagno lì di fronte, così che gli sbirri alzarono subito il capo in quella direzione, senza mettersi a guardare sugli alberi intorno. «Bondì, signoria!» fecero. «Non avrebbe per caso visto correre il brigante Gianni Brughi?» «Chi fosse, non so», rispose Cosimo, «ma se cercate un omino che correva, ha preso di là verso il torrente». «Un omino? È un tronco d'uomo che mette paura!» «Beh, di quassù sembrate tutti piccoli. Grazie, signoria!» E tagliarono giù verso il torrente. Cosimo tornò sul noce e riprese a leggere il Gil Blas. Gianni Brughi era sempre abbracciato a ramo, pallido in mezzo ai capelli e alla barba ispidi e rossi, proprio come Brughi, con impigliati foglie secche, ricci di castagna e aghi di pino. Squadrava Cosimo con due occhi verdi, tondi e smarriti. Brutto era brutto. «Sono andati?» si decise a domandare. «Sì, sì», disse Cosimo, affabile. «Lei è il brigante Gianni Brughi?» «Come mi conosce?» «Così, di fama». «E lei è quello che non scende mai dagli alberi?» «Sì, come lo sa?» «Beh, anch'io, la fama corre». Si guardarono con cortesia, come due persone di riguardo che si incontrano per caso e sono contente di non essere sconosciute l'uno all'altra. Cosimo non sapeva cos'altro dire e si rimise a leggere. «Cosa legge di bello?» «Il Gil Blas di Lesage». «È bello?» «Eh sì». «Le manca tanto a finirlo?» «Perché?» «Beh, una ventina di pagine». «Perché quando l'aveva finito volevo chiederle se me lo prestava». Sorrise un po' confuso. «Sa, passo le giornate nascosto, non si sa mai cosa fare. Avessi un libro ogni tanto, dico. Una volta ho fermato una carrozza, poca roba, ma c'era un libro e l'ho preso. Me lo sono portato su nascosto sotto la giubba. Tutto il resto del bottino avrei dato pur di tenermi quel libro. La sera accendo la lanterna, vado per leggere, era in latino, ma non ci capivo una parola». Scosse il capo. «Vede, io il latino non lo so». «Latino, caspita, è duro», disse Cosimo, e sentì che suo malgrado stava prendendo un'aria protettiva. «Questo qui è in francese». «Francese, toscano, provenzale, castigliano, lì capisco tutto», disse Gianni Brughi. «Anche un po' il catalano. Bon dia, buona nit, e sta la mar molto alborotada». In mezz'ora Cosimo finì il libro e lo prestò a Gianni Brughi. Così cominciarono i rapporti tra mio fratello e il brigante. Appena Gianni Brughi aveva finito il libro, correva a restituirlo a Cosimo. Ne prendeva in prestito un altro, scappava a rintanarsi nel suo rifugio segreto e sprofondava nella lettura. A Cosimo i libri li procuravo io dalla biblioteca di casa e quando li aveva letti me li ridava. Ora cominciò a tenerli più a lungo, perché dopo Letti li passava Gian De Brughi. E spesso tornavano spelacchiati nelle rilegature, con macchie di muffa, striature di lumaca, perché il brigante chissà dove li teneva.